posizione, quell'ultimo sulla sinistra, ok. Per portarlo su, ecco, abbiamo fatto la sezione, la categoria Joomla, e dentro la categoria Joomla c'è un articolo, e che è questo qua. Vai, clicca, benissimo. Rientra nel pannello di controllo del menu. Adesso noi vogliamo, aspetta un secondo, menu, nel pannello di controllo del menu, menu principale, vai. Allora, noi vogliamo questo open source, invece di stare lì in fondo, venga su. Questo vale sia per le categorie, per le sezioni, che per gli articoli. Vabbè, lui adesso lo sta facendo manualmente, uno alla volta, però basterebbe andare qui, vai nel numero 8, Frenchy. No. Chiudi. Vai nel numero 8, lo modifichi, ne metti uno. Vai nel... qui, in ordine. Automaticamente mi va su o quasi su del tutto, va al primo posto. Casomai no, va al secondo, vabbè no, la lascia l'ombra e la stella del primo. Ok, quindi fai anteprima e vedi che si è spostato da solo. Questo vale sia anche per quando si fanno, si vogliono mettere gli articoli che vengano prima o da altri, ma comunque per gli articoli, per dargli l'ordine degli articoli all'interno del. Nella gestione delle categorie del menu c'è scritto se l'articolo viene messo per data, per titolo, per ordine, che l'ordine che è quello manuale. Vammi di nuovo in menu, perfetto. Noi adesso facciamo il menu a nuovo all'articolo. Nuovo articolo. No, menu. Nuovo. Ah. All'articolo, c'è la possibilità di fare sia la sezione, vai all'articolo, link all'articolo, aspetto articolo, ok. Quindi, ok. Mentre lui scrive, passato di mente, ah sì, la visualizzazione, eccolo qua, deve selezionare sezione, seleziona sezione, open source, seleziona la categoria. Open source ne ha una sola, quindi ne trova una sola. Trova l'articolo, lo seleziona, clic. Sempre parametri standard sono più o meno quelli di prima. Sono gli stessi. Sono gli stessi sia per le sezioni che per le teorie. Salva. E qui abbiamo il collegamento all'articolo vero e proprio. Dove è andato? È andato sotto. Ok. Ok, è direttamente all'articolo. Quando voi creerete un nuovo menu, facciamo l'ultimo, basta, non siete tanto da dire ragazzi, vale, vi giuro, ma me ne rendo conto quando lo spiego. Quando noi creiamo un nuovo menu, che invece di fare quello che abbiamo già, ne vogliamo fare uno nuovo, scrivi Francesco, Venus, dai, si forma in automatico, non lo vedremo subito attivo, perché dovremmo riempirlo poi dei contenuti, ok? Ecco, noi creiamo un nuovo menu, questo qui sarà un nuovo che avrà dei dei link diversi da quelli che abbiamo già messo. Andiamo nei contenuti, componenti, queste no, gestioni, moduli, si è creato immediatamente il modulo, dove l'hai messo? Eccolo qua, Francesco, vedete che non è attivato? Allora, per vederlo attivato, bisogna attivarlo da lì se è già pronto. Però, adesso ritorna nel Francesco, vai nel modulo Francesco. Il modulo Francesco si può mettere dove? Tanto mostra titolo, sì o no, che quindi significa, aspetta, c'è scritto menu principale, ecco, lì si visualizzerebbe il nome Francesco. Abilità attivato, sì o no, l'abbiamo attivato. Posizione left, allora, ok. Questo modulo che si può si può mettere in varie posizioni, left, right, o anche footer, o anche breadcrumb, adesso sì, breadcrumb, a dipendere se questi tipi di blocchi o moduli sono stati attivati nel file XML e nel file con CSS. Poi, associazione, ecco, il modulo si può assegnare a tutti i file. E le pagine. A tutte le, sì, scusa, ragiono ancora HTML. Si può attivare in tutti gli articoli o soltanto in alcuni. Qui adesso vede, si vede dove, dove sono gli articoli, che adesso si disattiva o si attiva. Il parametro modulo, basta, parametri modulo, stile lista, quello che dicevo, verticale, orizzontale o lista flat, è qui che si modifica la, se, se per orizzontale o verticale, mostra sempre le voci dei sottomenu, sì, perché si possono creare anche dei sottomenu, e questo però un'altra volta, perché stasera non ce la facciamo a fare tutto. Salva Franci, dove i parametri avanzati sono simili agli altri. Ok, però noi adesso il modulo dov'è? Gira, dove l'hai messo? Eccolo qua, ecco, perfetto, vedete adesso c'è soltanto il titolo, adesso è vuoto e all'interno lì si può mettere il collegamento ai, alle sezioni, alle categorie e alle, agli articoli. Per adesso penso che sia, ne fai uno? Per adesso penso di aver finito, passo la parola, finito, non è finito, sono arrivata sino a un quinto, passo la parola alla Giuliana che mi metto sul mio, finirà, che mette, si mette con su, Franci, che ha tutto quanto già installato. No, Franci, è meglio che fai con suo. Grazie, scusate. È la prima volta che lo insegno, ma magari lo vede o non lo sì, lo dice. Bene, allora ci sono. Sì, allora l'accessibilità. L'accessibilità a cosa serve e come utilizzarla? Cioè di accessibilità si sente parlare, però magari dopo uno in pratica non sa che cosa sia, perché uno dovrebbe porsi questo problema. Allora, a grandi linee è per superare, per permettere anche a chi ha problemi di manualità con il computer o anche altri tipi di problemi che possono essere disabilità fisiche, sensoriali, disabilità cognitive, barriere tecnologiche, cioè una connessione lenta, ecco, tutti questi tipi di problemi, di difficoltà dovrebbero essere superati facilitando l'accesso alle pagine web. Allora andiamo un po' a vedere. Ci sono delle soluzioni sia a livello hardware che a livello software per permettere a tutti appunto di accedere in maniera semplice e facile a internet, alle pagine web. Ci sono delle soluzioni hardware che sono gli screen reader, cioè quelli che leggono il testo e che permettono anche a chi non ci vede di comunque di ricevere le informazioni che queste pagine trasmettono, o altri tipi di hardware che hanno questa funzione. E a questo proposito sono state fatte delle regole che dovrebbero appunto permettere di avere delle pagine web che siano conformi a uno standard per cui sono accessibili a tutti. Queste regole si chiamano, sono state chiamate VAI, che sarebbero le Web Accessibility Initiative, ovvero iniziativa per l'accessibilità del web. È una sezione del World Wide Web Consortium, meglio noto come W3C. Allora, questo consorzio ha dato queste regole, vedete W3C, VAI, che poi sono state formulate in un primo tempo come WAG, VAG, e poi sono state vi farò poi velocemente vedere in cosa consistono queste regole WCAG 1, e poi hanno avuto un'evoluzione in WCAG 2.0. Allora vediamole un pochino meglio. Questo è il VAG 1.0, cioè Web Content Accessibility Guideline 1.0. Il mio inglese è così approssimativo. Comunque, le linee guida qui contenute vorrebbero essere queste: fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo, cioè quando c'è un contenuto audio e video ci deve essere anche un testo che comunque spiega a chi non può vederlo che cosa, o chi non può sentirlo, che cosa c'è in quel messaggio. Non fare affidamento solo sul colore, cioè perché non è detto che, per esempio, che è daltonico, che interpreti giustamente il colore e quindi riceva il messaggio che dovrebbe essere trasmesso con quel particolare colore, quindi non si può affidarsi solo al colore. Poi usare marcatori e fogli di stile in modo appropriato, i fogli di stile sono i CSS di cui parlava prima lei, tabelle, le tabelle che molto spesso vengono usate nelle pagine web per impostare la pagina, invece dovrebbero essere usate solamente in funzione di tabelle, cioè quando c'è un elenco che va messo in una tabella, come le usiamo normalmente. Invece, purtroppo, nelle pagine web spesso queste tabelle servono per distribuire le parti della pagina. Ecco, e quindi il suggerimento qui di queste linee guida è di non utilizzare le tabelle fuori luogo in questo caso, ma di utilizzare piuttosto il CSS, cioè i fogli di stile, per impostare la pagina. Poi assicurarsi, sì, appunto, assicurare anche sono già andata nell'altra pagina. Assicurare l'accessibilità diretta delle interfacce utente incorporate, progettare per garantire l'indipendenza dal dispositivo, usare queste raccomandazioni e le tecnologie raccomandate da questa serie di disposizioni, fornire chiari meccanismi di navigazione, assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici, cioè che siano usabili in pratica. E poi c'è stata questa evoluzione alle linee guida 2.0, che comunque grosso modo, adesso non starei qui a guardarle una per una, sono un'evoluzione di quelle che abbiamo spiegato precedentemente e che sono raggruppabili nelle seguenti finalità. Una pagina web deve essere percepibile, deve essere utilizzabile, accessibile da tastiera in tempo sufficiente, navigabile, deve essere comprensibile, cioè deve essere leggibile in modo abbastanza immediato, prevedibile, e deve essere robusta, cioè deve essere costruita con un linguaggio che sia leggibile da qualsiasi supporto, perché uno può avere anche tipi di tecnologia con modem lenti o tecnologie molto basse, per cui ci deve essere uno standard abbastanza basso, insomma largo per l'accesso. E, a seconda del rispetto di questi gruppi di regole si individuano tre livelli di priorità. Allora c'è la priorità 1, priority 1, quando tutti questi punti che abbiamo visto prima sono stati soddisfatti. Non soddisfarli implica che alcuni gruppi di utenti non saranno in grado di accedere ai contenuti presenti nelle pagine web. Ecco, quando questa priorità che permette a tutti di accedere viene rispettata, allora si può esporre nel sito il primo bollino che vedete, che è quello con la A rossa. C'è scritto V3C, vai, e sotto i principi guida, che sono il VCAG 1.0, e la A vuol dire che la priorità 1 c'è nel sito, si riscontra. Se invece viene rispettata anche la priorità 2, cioè i punti che abbiamo visto prima sono stati soddisfatti, e in caso contrario uno o più gruppi di utenti troveranno difficile accedere ai contenuti delle pagine, Soddisfare la priorità 2 significa rimuovere le barriere dell'accesso all'accesso. Allora si può mettere anche il bollino con le 2A. Poi c'è la priorità 3 che vuol dire che si soddisfano questi punti